Di solito si parla di due episodi delle foibe, le foibe istriane del 1943 e le foibe triestine del 1945. Per quanto riguarda le foibe istriane, anche in questo caso ci si dimentica di raccontare il contesto. Praticamente cos'era successo dopo l'8 di settembre con la capitolazione dell'esercito e dell'apparato statale italiano? In Istria si era avuto un'insurrezione e la formazione di un potere popolare, soprattutto nella zona interna dell'Istria, con diciamo, capitale Pisino. In questa occasione erano stati arrestate moltissime persone che avevano rappresentato lo Stato italiano e gli esponenti del fascismo. Quando si dice coloro che rappresentavano lo Stato italiano erano fascisti anche questi, perché in Istria e nella Venezia Giulia non esistevano esponenti dello Stato che non fossero anche fascisti. Quindi si ebbero gli arresti di molte di queste persone, alcune centinaia, molti anche riuscirono a nascondersi. E queste persone vennero portate in vari luoghi di prigionia, fra cui nella fortezza di Pisino. E la gran parte di queste persone non vennero uccise subito, ma, e questo risulta anche proprio dai necrologi, dagli annunci mortuari che furono pubblicati nei mesi successivi sui giornali locali come il Piccolo e il Corriere Istriano, queste persone vennero uccise soprattutto fra il 4 e il 5 ottobre del 1943, cioè una ventina di giorni dopo rispetto al loro arresto. Perché questa data, 4 e 5 ottobre? Perché questa è la data in cui si ha la riconquista dell'Istria da parte dei nazifascisti. E dopo l'8 di settembre, quando si è riformato il potere popolare, naturalmente i tedeschi stavano invadendo la Venezia Giulia e l'Istria, così come il resto d'Italia. Però in Istria trovarono una resistenza e, guidati da quei fascisti che si erano nascosti, i tedeschi procedettero a una violentissima occupazione dell'Istria, con l'incendio di decine di villaggi e l'uccisione di migliaia di persone. Nel dicembre del 1943 essi stessi, i tedeschi, si sarebbero vantati di aver messo fuori combattimento e ucciso almeno 10.000 persone. La riconquista dell'Istria avvenne appunto in occasione del 4-5 ottobre con il bombardamento di Pisino e quindi il ritiro delle forze partigiane, di coloro che avevano formato questo governo popolare. Nel ritirarsi da Pisino portarono con sé anche quei fascisti che erano stati arrestati e vennero uccisi in questa occasione e in parte gettati nelle foibe. In questo periodo, naturalmente, che fu anche un periodo di caos e di confusione, sicuramente ci furono anche delle vendette personali e dei delitti contro persone che non avevano avuto particolari forse responsabilità durante il fascismo, ma sono cose che penso siano abbastanza comprensibili nei momenti di grande confusione e di difficoltà come quelli che si ebbero al momento appunto della capitolazione dell'Italia e della invasione dell'Italia da parte dei nazisti. Quante furono queste persone uccise ed infoibate in questa vicenda delle foibe istriane. In particolare i documenti che ricordo in questa occasione sono due. Uno è il rapporto o relazione che fece il maresciallo dei vigili del fuoco Arzaric, dei vigili del fuoco di Pola, che nell'ottobre del 43 ebbe dai nazisti l'incarico dei recuperi dalle foibe istriane. Egli procedette a questi recuperi e nel giugno del 45, con l'insediamento del governo militare alleato a Trieste, fu chiamato a fare un rapporto su questi recuperi. Lui fece questo rapporto dove parlava dei recuperi di poco più di 200 corpi, poi parlava di alcune altre decine di corpi che non erano stati recuperati o che erano stati uccisi in altri modi, come per esempio annegati con una pietra al collo in mare, e quindi 200-250 era il numero di recuperi o di morti di cui lui parlava. Poi c'è un altro documento di una lettera che Luigi Bilucaglia, il federale dell'Istria, scrisse alla fine di aprile del 45, quindi alla fine della guerra, a Ercole Miani, che era un esponente del CLN triestino, e in questa lettera gli affidava 500 pratiche che contenevano documenti dei parenti di persone che erano scomparse, di italiani che avevano combattuto per l'italianità dell'Istria, come diceva lui, e che erano stati uccisi per mano partigiana dal 43, cioè dall'8 di settembre alla fine della guerra. Quindi 250 e 500 sono le cifre entro le quali sta il numero di coloro che furono uccisi dai partigiani e i foibati in Istria in questo periodo. Per quanto riguarda le foibe cosiddette triestine, la documentazione che noi abbiamo trovato dimostra che in quello che è considerato il monumento simbolo delle foibe triestine, cioè la foiba di Basovizza, non ci sono stati gli infoibamenti che vengono raccontati. Chi va sul monumento alla foiba oggi, che poi è un posto di miniera, non una foiba dal punto di vista geologico, trova la cifra di 500 metri cubi di infoibati, questo modo un po' strano di calcolare i numeri degli infoibati, e nei dépliant, nei libri che vengono dati, si parla di 2500 infoibati a Basovizza e 1000 nella foiba di Monrupino, che fa parte sempre del monumento, quindi ci sarebbero lì 3500 corpi. In realtà la documentazione dimostra che già gli anglo-americani nell'estate autunno del 45 avevano proceduto ai recuperi e che avevano trovato soltanto 10 corpi di persone che probabilmente erano da identificarsi come soldati tedeschi. Questa vicenda, dal punto di vista delle autorità alleate triestine, finì nel febbraio del 46 con l'ordine che venne dato da parte delle autorità alleate ad altissimo livello da Washington e da Londra di interrompere le ricerche nel pozzo della miniera di Basovizza, in quanto appunto non avevano dato risultati. E nonostante ciò, in tutto questo dopoguerra si è continuato questa forsennata propaganda. il telegramma che concludeva nel febbraio del 45 la vicenda delle ricerche nella foiba di Basovizza da parte degli angloamericani, diceva alle autorità triestine: vi autorizziamo però a dire che le indagini vengono interrotte per la mancanza di mezzi tecnici adeguati, in modo da non dare agli jugoslavi la possibilità di affermare che tutta questa cosa è stata fatta soltanto come propaganda contro di loro. Allora, per dimostrare negli ultimi anni che appunto si era trattata di pura propaganda per 50-60 anni, un gruppo di persone di Trieste ha più volte fatto esposti alla magistratura triestina perché venisse aperta la foiba di Basovizza e fossero recuperati i corpi, eventualmente cioè i resti, quello che rimane ancora contenuti, e si sa che comunque anche dopo 60 anni le ricerche, se questi corpi ci fossero stati, potrebbero comunque dare dei risultati. Invece la magistratura triestina ha sempre archiviato questi esposti. Per quanto riguarda la foiba di Monrupino, la vicenda è ancora più incredibile, in quanto nella foiba di Monrupino erano stati nei giorni immediatamente successivi al 1° maggio, quando c'era stata una battaglia sul Carso fra i tedeschi in ritirata e i partigiani, e i tedeschi erano stati bombardati dagli aerei inglesi. In questa occasione erano morti molti tedeschi e i loro corpi erano stati gettati nella foiba di Monrupino come luogo di sepoltura temporaneo. Questi corpi vennero poi recuperati negli anni successivi dalle autorità di governo tedesche e portati nel cimitero di Costermano, vicino a Verona, dove sono sepolti i tedeschi morti in Italia. Quindi la foiba di Monrupino ha contenuto dei corpi, ma erano corpi di soldati tedeschi, ed è stata svuotata già all'inizio degli anni 50. Nonostante ciò, vicino alla foiba di Monrupino c'è una lapide che parla di infoibati giuliani e dalmati. Ho fatto questo esempio per dimostrare appunto il livello della manipolazione che c'è intorno alla vicenda delle foibe triestine. Bisogna ancora aggiungere che negli ultimi anni, dopo che noi di Resistenza Storica e Claudia Cernigo in particolare nel suo libro abbiamo pubblicato la documentazione relativa appunto a queste ricerche degli angloamericani nella foiba di Basovizza, e la testimonianza che non trovarono i corpi perché non c'erano. Adesso questa documentazione, che all'inizio veniva assolutamente non presa in considerazione, sta cominciando ad essere presa in considerazione anche da storici accademici, i quali tuttavia temono di dire la verità su queste cose, perché temono evidentemente per il loro posto di lavoro, perché questo è il livello delle cose in Italia oggi. Tuttavia, poiché non si può più negare l'esistenza di questa documentazione, si comincia a dire che, vabbè, comunque la foiba di Basovizza, il monumento, è un simbolo. Ma noi diciamo che un simbolo deve essere simbolo di qualcosa, cioè se quei 3.500 infoibati non ci sono a Basovizza, dovrebbero essere da qualche altra parte, però quest'altra parte non viene indicata. Questa di negazionismo è un atteggiamento assolutamente ideologico, intendendo con questo termine una falsa rappresentazione della realtà, in quanto come dice giustamente Claudia Cernigoi, si potrebbe dire che allo stesso modo gli altri sono affermazionisti, cioè loro hanno affermato delle cose che sono false, e chi nega queste cose in base alla documentazione, non in base a semplici idee, sarebbero dei negazionisti. Ma io personalmente sono contraria a questo modo di definire le persone, gli storici in generale, anche per le vicende più ampie della Seconda Guerra Mondiale. Secondo me dare definizioni degli storici o delle persone è un modo per non affrontare i problemi. Secondo me la documentazione che viene presentata va sempre analizzata e contrastata con altra documentazione, non con giudizi sulle persone e sugli storici, perché questa è una situazione veramente sconvolgente e che dimostra il livello ormai di regime a cui siamo arrivati. Noi abbiamo dimostrato, e soprattutto nel libro di Claudia Cernigoi, Operazione Foiba, Trastoria e Mito, che quello che si dice della foiba di Basovizza, ma per conseguenza anche su tutto il discorso delle foibe triestine, è frutto di ampia manipolazione. Questa dovrebbe essere una importante notizia, e in teoria si dovrebbe anche essere contenti che non ci sono stati tutti quegli infoibati, e invece sembra che questa sia la vera tragedia, e cioè il fatto che si sia riusciti a dimostrare che questi corpi non ci sono. Allora, storicamente è un fatto incontrovertibile, anche se purtroppo le autorità italiane, anche ad alti livelli oggi in Italia, non vogliono riconoscerlo, che chi ha aggredito, chi ha prevaricato sugli altri per una lunga fase della nostra storia è stata la componente italiana, ma non tutta la componente italiana, cioè è stato il nazionalismo italiano che ha aggredito la Jugoslavia, che ha imposto l'italianizzazione a sloveni e croati, che ha ucciso e massacrato e messo in campo di concentramento sloveni e croati. Per gli sloveni e i croati, che erano sotto il dominio italiano, si trattava di una lotta di liberazione nazionale anche, che si è intersecata con la lotta di classe che c'era anche come componente nella loro lotta antinazifascista. È logico che ad un certo punto i comunisti jugoslavi che dirigevano la lotta di liberazione jugoslava sono entrati in una sorta di rapporto e di compromesso anche con le componenti borghesi della comunità slovena, croata, montenegrina, eccetera, cioè quelli che avevano un atteggiamento di rivendicazione nazionale che diciamo che significava una sorta di risorgimento per loro. E quindi queste componenti che avevano solamente l'elemento di liberazione nazionale e non anche di riscatto e di cambiamento sociale, erano portate a mantenere lo status quo ante Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista sociale, e quindi sicuramente hanno sviluppato delle idee nazionaliste che andavano al di là di un rapporto corretto fra le varie componenti nazionali. Sicuramente delle prevaricazioni di tipo nazionalistico ci sono state, ma se non si tiene conto di tutto questo contesto si rischia di dare dei significati diversi da quelli che hanno avuto. In realtà poi è successo che nel dopoguerra gli italiani che sono rimasti in Istria hanno avuto ampia rappresentanza parlamentare e politica, hanno avuto le loro istituzioni culturali e sociali finanziate anche dallo Stato jugoslavo, hanno potuto sviluppare la loro cultura, cosa che gli sloveni che sono rimasti in Italia non hanno potuto fare, perché la legge di tutela degli sloveni in Italia è stata fatta soltanto nel 2001 e non è ancora attuata. Sicuramente negli anni immediatamente successivi alla guerra, in questi territori, gli italiani, coloro che volevano mantenere un'identità italiana, si sono trovati in difficoltà. Il trattato di pace prevedeva le opzioni, cioè chi accettava la cittadinanza jugoslava rimaneva in Istria, chi voleva mantenere la cittadinanza italiana doveva andarsene. Cioè in questo periodo di grande revanchismo, in cui si fa in maniera enfatica e retorica tutto il discorso sull'italianità perduta di queste terre e torneremo, e le associazioni degli esuli che parlano come avrebbero parlato, come parlavano i fascisti nell'immediato dopoguerra, ma parlano nell'ambito della Repubblica nata dalla Resistenza, bisognerebbe riflettere su questo linguaggio e su questo revanchismo, perché può mettere in moto a livello europeo dei meccanismi veramente molto, ma molto pericolosi se si mettono in discussione i vecchi trattati di pace. Non c'è soltanto la questione della Venezia Giulia e del confine orientale d'Italia, ci sono tanti altri territori, soprattutto quelli che erano abitati da tedeschi, nella Repubblica Ceca, in Polonia, eccetera, da cui sono andati via milioni di tedeschi, e c'è un movimento revanchista in questo senso anche in Germania, che è anche collegato con le organizzazioni degli esuli italiani. Quindi io credo che soprattutto le forze politiche di sinistra dovrebbero stare molto attente a tutta questa vicenda, che non è nata per caso. Se da una ventina di anni a questa parte c'è chi mesta nel torbido, è perché non si parla soltanto di storia, non si parla di cose successe 60 anni fa, si vuole parlare di cose dell'attualità di oggi, e in particolare con la vicenda delle foibe e tutta la manipolazione sulla vicenda delle foibe che c'è stata, si è voluta porre di nuovo le basi per una politica estera aggressiva da parte dell'Italia nei confronti della penisola balcanica, politica aggressiva che del resto si è manifestata negli anni 90 con l'intervento diretto delle forze armate italiane nella guerra di Jugoslavia, il bombardamento di Belgrado e tante altre cose che sono successe dopo.